Ricordate, la formula richiede che la massa sia in grammi. Dovete quindi moltiplicare 5.000 grammi per 2 joule su grammi per gradi centigradi e poi per 10 gradi centigradi.